Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito e Marianna Stefanucci. Nomination, confessionale, giuria, televoto. Tutte parole che sono entrate nel nostro vocabolario, che sentiamo quotidianamente, ma che fino a poco tempo fa o non esistevano o avevano un significato ben diverso. Oggi Destini Incrociati fa un viaggio nel controverso mondo dei reality show. Ma se siete tra quelli che storcono il naso, avrete modo di ricredervi, perché non tutto il male viene per nuocere. È il 1997, quando John DeMol, il presidente della sua prolifica casa di produzione, ha l'idea rivoluzionaria che cambierà la televisione di tutto il mondo, oltre naturalmente al suo conto in banca. Sfogliando una rivista scientifica, la sua attenzione è catturata da un articolo che prevede un esperimento a metà strada tra sociologia e antropologia. 8 persone chiuse in una cupola di vetro per 2 anni per osservarne il comportamento. Non si sa se lo studio sia stato effettivamente portato a termine, ma di certo da quella suggestione, e non come credono in molti dal romanzo 1984 di Orwell, nasce Big Brother, il Grande Fratello. In un attimo è boom di ascolti e fenomeno di costume, impossibile parlare d'altro. Comincia Grande Fratello, la trasmissione più attesa e discussa della stagione. Come si fa a non parlare del Grande Fratello? 10 milioni di spettatori per la puntata del Grande Fratello. Il Grande Fratello è certamente uno degli eventi televisivi di questa stagione. Grande Fratello, che resiste edizione dopo edizione, è il prototipo di un genere che si basa sul principio di una finta interattività, in cui il pubblico a casa crede di manovrare quello che succede. Un genere in cui la realtà si mescola con la finzione, e quello che dovrebbe essere nelle intenzioni originali un quotidiano sbirciato dal buco della serratura, diventa sempre di più spettacolo. L'isola dei famosi, la talpa, la fattoria sono solo alcuni dei più seguiti titoli nostrani, che spesso sono format comprati dall'estero. Il loro successo è travolgente e i protagonisti, VIP e non, diventano i personaggi di una telenovela un po' gioco sadico e un po' emotività di cui non perdere neanche una puntata. A moderare gli sviluppi narrativi oltre al conduttore, quelle strane figure contemporanee che Aldo Grasso e gli altri critici hanno iniziato a chiamare opinionisti. Gli opinionisti, io adoro gli opinionisti perché è una professione nuova inventata dalla televisione, questa cosa meravigliosa per cui chi non ha idee ha diritto di andare in televisione a fare l'opinionista. A dirla così sembra la totale negazione della professionalità e molte volte è evidente, dalle grida, dai litigi, dalle eterne discussioni sul nulla, dalla totale assenza di talento di chi nel piccolo schermo ha sostituito proprio quei grandi personaggi che tra quiz e intrattenimento hanno fatto la storia del loro paese. Eppure c'è ancora qualcuno nel mondo che è spinto dalla passione più che dalla ricerca di una gloria effimera. Qualcuno che crede in quello che fa e che rifugge il successo che arriva di colpo e sparisce ancora più in fretta. È un uomo dall'intuito infallibile e dai modi schietti al limite dell'arroganza che fa diventare oro qualsiasi cosa tocchi. Il suo nome forse non vi dirà molto, ma tra poco capirete tutto. Un indizio? Ha sicuramente l'X Factor. Si chiama Simon Cowell. Pensavo che non fosse della squadra, era vestito meglio e stava fermo. Quando io sto fermo è perché ho qualcosa in mente. Sono come sono, sono cosa sono, sono come sono, forse neanche. Simon Cowell, inglese di Brighton, è un bell'uomo moro dai tratti decisi che non ha paura di dire quello che pensa. Fin da piccolo ha impostato tutti i suoi rapporti sociali sulla sincerità. E siccome a volte questo può creare molti più guai di una bugia, spesso è stato giudicato spietato. Ma soprattutto Cowell non è mai stato minimamente imbarazzato nel riconoscere il suo talento. Io non so cantare, suono male la chitarra e non produco album. Però ho un fiuto incredibile. So perfettamente capire cosa diventerà pop. Non è un caso se ha scelto di diventare produttore di show musicali. È la sua capacità di cogliere le esigenze e i bisogni del pubblico che l'ha reso una figura vincente. Anzi, qualcosa di più, perché Simon Cowell è l'artefice del successo del programma che spopolerà in mezzo mondo, X Factor. Energia! Attenzione! Ladies and gentlemen, signore e signori, facciamo entrare i 12 talenti di X Factor! Le idee geniali arrivano spesso quando non le si va a cercare. E Simon, infatti, ha l'intuizione della sua vita mentre sta guidando per le campagne della Scozia. È una cosa che fa appena un po' di tempo libero. Entra in garage, sceglie una delle auto che ha collezionato per premiarsi ogni volta che ha strappato un contratto. Sistema il sedile e lo specchietto, allaccia la cintura, ingrana la prima e parte. Senza meta, soltanto per assaporarsi il viaggio. Ha una vera e propria passione per i motori e la macchina per lui non è un mezzo di trasporto. Per Londra mi muovo sempre in taxi o prendo i mezzi pubblici. Stare nel traffico mi sfianca. Quello non è guidare, è farsi venire un esaurimento nervoso. Mettere musica di atmosfera in sottofondo, battere il ritmo con le dita sul volante e godersi il verde dell'Inghilterra è un piacere a cui davvero non può rinunciare. E una domenica di ottobre, mentre sta macinando chilometri a bordo della sua Lamborghini, la preferita del momento, si ferma al margine della strada, tira fuori dal cruscotto un vecchio block notes e una penna e inizia ad appuntarsi quello che diventerà lo scheletro della struttura di X Factor. In sintesi, una via di mezzo tra gara di canto e reality show, in cui le esibizioni e le sfide tra i concorrenti vanno di pari passo con gli psicodrammi personali. Ho pensato di dividere i ragazzi in tre gruppi, band, 16-24 anni e maggiori di 25 anni. Tre giudici gestiscono ognuno un gruppo e si procede selezione dopo selezione attraverso il televoto fino alla finale. L'idea è semplice e le regole facili. Forse è questa la chiave per arrivare al pubblico, oltre naturalmente a un alto tasso di emotività. Confezionare un prodotto di cui si possa anche perdere qualche pezzo, senza necessariamente perdere il senso globale, dando così la possibilità di fare altro mentre lo si guarda. L'ispirazione parte dall'altra grande roccaforte dei talent show d'oltreoceano, American Idol, partorito dalla mente di Simon Fuller, l'uomo che stava dietro niente meno che all'invenzione delle Spice Girls. Erano gli anni 90 e i produttori musicali cominciavano a costruire a tavolino prodotti prefabbricati per lanciare sul mercato gruppi di ragazzi, soprattutto maschi, a parte le Spice, che cantavano e ballavano musica pop scritta appositamente, ma senza suonare alcuno strumento. Boy band come Take That, East 17, Backstreet Boys, frutto di massicce campagne di marketing, hanno venduto milioni di dischi in tutto il mondo e venivano contese dalle reti di tutto il mondo. Basta sentire le parole di Pippo Baudo a proposito di Robbie Williams e compagni. Pare che la cosa sia sicura, sarà la loro ultima esibizione, cioè si scioglieranno qui a Sanremo, dove hanno avuto il loro primo successo. C'è stato già un allontanamento di un personaggio, sono rimasti, ecco qui, stanno provando, c'è un entusiasmo fuori enorme. Il passaggio dalle band confezionate su misura per i teenager ai talent show non è stato molto lungo. Gli addetti ai lavori hanno capito subito che premiava più la forma della sostanza e che la formula della star patinata, studiata nel minimo dettaglio e corretta nelle sue imperfezioni, fossero ritocchi in sala d'incisione per quanto riguarda la voce o al computer per quanto riguarda l'immagine, era quella vincente. Come in una soap opera, il pubblico si appassiona alle vicende personali sempre più drammatiche. Le storie felici non interessano a nessuno, questo lo si sa da tempo. E come nei telegiornali a fare notizia non è il cane che morde l'uomo, ma l'uomo che morde il cane, anche nei talent show è lasciato largo spazio all'esasperazione dell'intimità. Il risultato è che negli Stati Uniti un programma come American Idol non smette di piacere neanche dopo 10 edizioni e ha dato vita nel frattempo a una serie di imitazioni mal riuscite che mai ne hanno eguagliato il successo. Tutte, tranne una, X Factor, che addirittura sarà destinato a batterlo. Sapevo fin dall'inizio che il mio programma avrebbe sfondato, perché ha tutti gli ingredienti giusti, ha davvero una marcia in più, è come una macchina perfetta. Come posso dire, X Factor all'X Factor. Simon Cowell, quando ha ideato X Factor, è partito da un concetto apparentemente banale, ma che in realtà nasconde una grande profondità sociologica. Nel 2000, con l'esperienza delle boy band alle spalle, il cantante deve avere sempre più appeal mediatico. Da questa capacità di bucare lo schermo non si può proprio prescindere. Il talento è solo il punto di partenza, non basta davvero più. Bisogna essere giovani, brillanti, carismatici, glamour, insomma, appetitosi per il mercato e interessanti per il gossip. Solo così oggi si può sfondare nel mondo della musica. Ha le idee molto chiare, Cowell. Quando prende una decisione non ci deve pensare troppo, perché agisce di puro istinto, seguendo quello che gli dice la pancia. E non sbaglia mai. Il suo sesto senso è proverbiale e i media, come da tutte le figure un po' fuori dagli schemi, ne sono affascinati. He's now one of the most successful music figures in the world. La sua opinione nell'ambiente, mormorano gli invidiosi, corrisponde un po' a quella di Anna Wintour, la mitica direttrice di Vogue America nella moda. Tutto quello che dicono loro, senza troppi giri di parole, è legge. E i due sono simili anche nei modi, bruschi, senza alcuno strascico di sentimentalismo. La loro vita coincide con il loro lavoro e per entrambi l'unico obiettivo è la perfezione. D'altra parte, avere l'X Factor non è cosa da tutti. Grinta, determinazione, fascino si sommano a una bravura che deve sbaragliare la concorrenza. Prima del pubblico sono i giurati che decidono, a partire da selezioni che durano settimane. Un modo del tutto nuovo di scoprire talenti che apre uno scenario su cui anche il critico musicale Mario Luzzatto Fegiz si interroga. C'è una lotta in corso, è una lotta generazionale, anagrafica e stilistica. Da una parte questa nouvelle vague dei talent show, dall'altra parte gli storici. Il programma rintraccia le speranze di chi vuole fare del palcoscenico la propria vita. Le ambizioni sono trasversali, sono le stesse in tutti i paesi in cui va in onda lo show. Anche perché, senza scomodare i sociologi, la globalizzazione in atto porta a condividere, oltre ai format televisivi, anche i problemi. Sono un cantatore e oggi sono venuto qui a X Factor per provare a trovare un po' di visibilità in questo mondo della musica che è veramente allo sbando in Italia. Ma noi siamo sempre fiduciosi. Il dibattito su questo genere di programma dura anni e forse non finirà mai, almeno finché non finiranno i programmi stessi. Si parla di abbassamento del livello, di mancanza di professionalità e si dice che quelli che vengono considerati i talenti siano in realtà soltanto prodotti finti e vuoti pompati dallo showbiz. A volte questo è vero, è innegabile. Ma di certo oggi il talent show è il luogo virtuale in cui si scoprono gli astri nascenti e ha sostituito un po' i vecchi locali in cui i giovani tentavano di farsi notare. Chissà se i Beatles, invece di suonare tutte le sere nel fumoso Cavern Club di Liverpool, si sarebbero sottoposti all'impietoso giudizio di Cowell. Sarebbe stato possibile per Jimi Hendrix aspettare l'annuncio del presentatore ed esibirsi sotto le luci dello studio, anziché esordire nei locali afroamericani di Jefferson Street a Nashville. E Caterina Caselli, Renato Zero, Patti Pravo avrebbero accettato consigli da una agguerrita Simona Ventura o da una inesperta e contestatissima Anna Tatangelo? La risposta sembra ovvia. Eppure anche Mario Luzzatto Fegiz ha dovuto ricredersi. Un ripensamento. Sono arrivato qui carico di odio verso quelli dei talent show e mi sono accorto che sono bravissimi. Eccolo lo sguardo controcorrente che rifiuta gli snobismi e accetta che ormai la cultura bassa si mescoli quotidianamente e indissolubilmente con la cultura alta. Cowell, geniale e precursore dei tempi, l'ha capito per primo, perché si è guardato intorno ed è arrivato alla conclusione che la musica, da che mondo è mondo, è quello che i ragazzi sognano di fare. E dare la possibilità a tutti di realizzare questo sogno, che sembra così difficile, è la vera chiave del successo. A X Factor tutti possono provare a diventare quello che vorrebbero. Poi non è facile diventare qualcuno, il mercato è davvero spietato, ma tutti ci possono provare. It's still the day until death. Destini incrociati. A Destini Incrociati siamo in Inghilterra nel 2004 e Simon Cowell, genio della comunicazione, con un eccezionale intuito per le nuove tendenze, ha appena ideato un programma che sta per spopolare non solo nel suo paese, ma nel mondo intero, X Factor. La versione italiana è stata condotta nella prima edizione da Morgan, Simona Ventura e Mara Maionchi. È una grande dote della popolarità e della bravura. Devo dire che mi piacerebbe molto produrvi. Discografica. La dichiarazione d'amore di Mara per Yaram. Io ho detto quello che penso. Morgan. No, io sono, diciamo, orgoglioso, contento del fatto che momentaneamente, fittiziamente, li sto predicendo, no? Cioè, no, nel senso, ma è giusto, ma, no, ma io ho fatto una dichiarazione di Mara. Ma posso chiederti una cosa? Sì. Insieme a Tony Lario lasceresti a casa uno dei due? No, no, me li porto tutti e quattro, anche la tua. La gara, già dalla prima messa in onda sugli schermi britannici, cattura milioni di appassionati che la sera, armati di telecomando e con a fianco il telefono per votare i loro preferiti, si mettono sul divano a godersi le esibizioni. Cowell è un giudice impietoso, non tollera la superficialità e critica ostinatamente quelli che si improvvisano cantanti, quei ragazzi che sono lì a fare il provino solo per rincorrere il sogno della gloria. Lui crede davvero che X Factor possa essere una fucina di talenti e mette tutto se stesso in quello che fa, fino ad arrabbiarsi moltissimo quando non condivide le decisioni degli altri giudici o del pubblico. Ma è un atteggiamento che Morgan, leader dei Blue Vertigo e fino all'anno scorso giudice della versione italiana, approva in pieno. Passione per il proprio lavoro è una cosa che tutti dovrebbero fare, a lavorare in questo modo così coinvolto, coinvolgente e appassionante, perché è così che si fa della buona musica, è così che si... Oh dear Lord, oh dear Lord, oh do you remember me? Molti rimproverano a Cowell di esagerare un po'. Insulti, parolacce, inviti a ritirarsi per sempre dal mondo della musica. I ragazzi sono increduli e scambiano per arroganza quello che in realtà è un metodo per semplificare tutto. Essere sincero fino in fondo e evitare inutili sofferenze provocate da illusioni. Il mondo è spietato. I ragazzi devono imparare a essere forti fin da subito. Se per te non c'è speranza, io te lo dico e basta. Ma lo faccio per te. Almeno lo capisci subito, invece di intraprendere un cammino con la speranza di farcela e poi ritrovarti nella stessa situazione di sconfitta. La prima stagione inglese viene vinta da Steve Brookstein, quarantenne dalla voce soul. Un singolo, un disco immediatamente prodotto dalla Sony e un'aspettativa altissima su di lui. Folle di ragazzine adoranti, media che gridano al miracolo e servizi fotografici che lo mettono improvvisamente al centro dell'attenzione. Ma Cowell, come sempre, ha visto giusto. Il cantante non sfonda, riesce soltanto a cavalcare l'onda dei talent show che porta inevitabilmente alla popolarità. Qualche serata in giro, alcune apparizioni in programmi più o meno importanti e poi, inevitabilmente, soltanto tentativi di rimanere in piedi. Il 2005, per la seconda stagione, è la volta di Shane Ward, giovane di Manchester che con il suo singolo d'esordio, That's My Goal, ha raggiunto la prima posizione della classifica del Regno Unito. Cowell crede in lui e gli offre un contratto con la sua casa di produzione, la Syco. Ma anche questa volta, mese dopo mese, la sua forza sfuma inesorabilmente. Quello che a volte nessuno capisce è che un conto è dimostrare di avere l'X Factor all'interno del programma e un altro conto è dimostrare di farcela una volta fuori. Lì sì che bisogna davvero dimostrare quanto si vale. All'inizio della terza edizione di X Factor, Simon Cowell, che il programma l'ha creato e lo tratta come un figlio, è un po' demotivato. Vede continuamente passare, da ormai due edizioni, ragazzi che sembrano avere un grande potenziale, ma che di fatto quando escono dallo studio e devono cominciare a camminare con le proprie gambe, non riescono a sfondare. I giudici nel corso dei mesi li preparano alle sfide, li sostengono psicologicamente, gli danno i consigli giusti per vincere. Ma una volta fuori? Daria Bignardi, che ha una grande esperienza con il mondo dei reality, visto che è stata la prima a condurre Il Grande Fratello, non nega che un talento va poi sempre coltivato. E allora, il talento televisivo, voglio dire, è una cosa che probabilmente, se è talento vero, c'è, perché è un modo di esserci, di comunicare, di esserci anche dentro probabilmente, che poi si può coltivare o non coltivare. Quindi se uno ce l'ha, con un reality magari puoi avere modo di coltivarlo, no? Quello che vorrebbe dimostrare Cowell con questa terza edizione è che qualcuno che vince a X Factor può davvero sfondare. Ed è per questo che durante le prime selezioni è sempre più duro, come quando a un provinante dice senza troppe remore di avere ucciso la sua canzone preferita. Oh, Robert, I think you just killed my favorite song of all time. Killed in a good way or a bad way? I'm afraid. Well, listen, killing is never good. Killing is never good. It's never a happy killing. Non accetta mezza misure. Ricerca la perfezione. E finalmente, dopo centinaia di audizioni, la trova. Lei è una ragazza mulatta, miscuglio etnico di madre italo-irlandese e padre della Guyana. È bellissima, con lunghi capelli di ricci fittissimi e una voce calda e potente. Il suo nome è Leona Lewis. Leona Lewis. Are we ready for this? It's Leona Lewis, everyone! Leona nasce a Islington, un quartiere di Londra, e ha un'infanzia felice con una costante colonna sonora. Canta sempre Leona, in casa, per strada, a scuola. Lei, quando un ritornello le rimane nella testa, non si limita a lasciarlo lì aspettando che se ne vada da solo, scacciato da qualche pensiero. Si mette davanti allo specchio e canta, ad alta voce. La musica era la mia vita, lo è sempre stata. Le mie amiche dicevano che volevano fare le ballerine e i maschi volevano fare tutti i poliziotti. Io volevo solo salire su un palco e cantare. I genitori decidono di sostenerla e incoraggiarla. D'altra parte, il suo talento, fin da piccolissima, è davvero sotto gli occhi di tutti. Studia alla Sylvia Young Theatre School, all'Italia Conti Academy e infine alla Brit School, la scuola più importante, che ha sfornato negli anni stelle della musica come Adele, Katie Melua, Kate Nash e soprattutto la cattiva ragazza Amy Winehouse. Leona ha un animo gentile, è rispettosa di tutto e tutti e impara dai maestri come una spugna. Intonazione, chitarra e piano. Le piace cimentarsi con qualsiasi strumento e si nutre di soul. Quando ha solo 12 anni, davvero talento precoce, scrive la sua prima canzone e partecipa ad alcune competizioni canore. Niente di importante, ma Leona serve per temprare il suo carattere. Ricevere dei rifiuti per me è stato fondamentale. Perché mi è servito per mantenere, nonostante tutto, una sicurezza e la voglia di andare avanti. È grazie a tutti quei rifiuti se non ho mollato. Era una prova prima con me stessa e poi con gli altri. Mese dopo mese, anno dopo anno, scrive e compone. Nessuno sembra essere interessato a lei. La concorrenza in giro è spietata e lei, pur molto motivata e grintosa, non riesce a sgomitare per farsi strada. Per mantenersi fa la cameriera, l'impiegata in un hotel, e nel frattempo non smette di sognare fino a quando, una sera, sua madre le mette la pulce nell'orecchio. Aveva appena visto uno speciale sulle selezioni per la nuova stagione di X Factor e mi ha detto: «Bimba, perché non ci provi?» Io non ci avevo mai pensato. In fondo, forse ero un po' snob e molto tradizionalista. Pensavo che le case discografiche ascoltassero ancora le demo e io continuavo a mandarne. Forse aveva ragione mia madre. Dovevo cambiare il mio modo di vedere il mondo della musica. E infatti, l'uomo che conta davvero nella discografia britannica e mondiale, Simon Cowell, è proprio seduto dietro alla lunga scrivania dei giudici di X Factor e aspetta solo di essere sorpreso. Leona si presenta ai provini ed è tesissima. Fuori c'è una coda di centinaia di ragazzi che, numerino attaccato alla maglia, aspettano il loro turno. Man mano che la fila si accorcia, Leona può vedere quelli che escono dalla stanza dell'audizione. Qualcuno esce piangendo, qualcun altro è arrabbiato e inveisce contro i modi bruschi di Cowell. Ma Leona, al momento di entrare, prende un profondo respiro e non pensa ad altro che a cantare. The rainbow Destini incrociati. A Destini incrociati siamo in Inghilterra. È il 2006 e una giovane ragazza londinese sta per dimostrare di avere l'X Factor all'uomo che le cambierà la vita. Si chiama Leona Lewis ed è nella stanza delle selezioni per partecipare alla terza edizione del talent show musicale che, dopo essere stato partorito dalla mente di Simon Cowell, ha conquistato mezzo mondo. Ero agitatissima, mi tremavano le mani e incrociavo le dita perché non mi tremasse anche la voce. Sapevo che ero brava, ma la concorrenza era davvero spietata. Mi chiedevo se sarei stata all'altezza. Simon è distratto, ha in mano il cellulare e lo sta guardando annoiato. Ma non appena Leona accenna le prime note, istintivamente lo appoggia sul lungo bancone dietro a cui stanno i giudici e ascolta. Tutti sono conquistati, a partire da Sharon Osbourne, abituata ad avere in casa un tipo un po' diverso, il leader dei Black Sabbath, l'icona musicale Ozzy Osbourne, che la leggenda vuole mangiatore di pipistrelli. Simon, alla fine dell'esibizione, addirittura si lascia andare a un applauso. Ha trovato finalmente il talento che cercava. Absolutely fantastic. E per tutti e quattro i giudici, Leona Lewis è un sì. Yes, yes, yes. And yes, four yeses. Well done, Kip. Leona, nel corso delle settimane di X Factor, conquista i giudici e il pubblico. Le sue esibizioni, con lei così semplice ed elegante, perfetta nell'esecuzione e calda nel modo di stare sul palco, sono emozionanti, da brivido. Per la prima volta Cowell sente che davvero qualcuno di X Factor andrà avanti oltre al programma. E Leona non crede a quello che le sta succedendo. Le persone mi fermavano per la strada. Mi dicevano che mi votavano, che volevano farmi vincere. Ogni volta anche andare a prendere il pane diventava bellissimo. Sentivo che la gente mi voleva bene davvero. Neanche a dirlo, Leona Lewis vince la terza edizione di X Factor inglese. Nel corso della trasmissione ha stupito tutti per la sua grande estensione vocale, per il suo spiccato vibrato della laringe, per il suo potente falsetto, capace di raggiungere note molto alte. Ha eseguito cover di brani di dive della musica come Whitney Houston, Mariah Carey, Christina Aguilera, Céline Dion e ha cominciato a essere paragonata a loro per le sue potenzialità vocali. Tutto questo riempie d'orgoglio il suo primo sostenitore e mentore, Simon Cowell. Io l'avevo capito subito, fin dalla prima volta che l'ho vista. Questa ragazza ha un potenziale incredibile, mi sono detto. Non credevo alle mie orecchie. Non mi succede mai, ma mi sono guardato il braccio e avevo la pelle d'oca. Per Leona, dopo anni di provini rifiutati, di serate racimolate in giro per i locali che le hanno fruttato quattro soldi, è l'inizio di una nuova vita. Tutti la cercano, la vogliono intervistare, vogliono conoscere la nuova stella del pop. Per tutto X Factor Simon mi ha difesa, mi ha sostenuta, appoggiata. È stato il mio maestro ed è lui che mi ha insegnato tutto. Improvvisamente ero catapultata in vetta alle classifiche ed è stato tutto merito suo. Il 2007 è l'anno che Leona trascorre preparando il suo primo album. Cowell non la lascia un secondo, la segue in ogni suo passo, perché per la prima volta sente che la sua creazione, X Factor, ha davvero portato qualcosa di eccezionale nel mondo della musica. Il 22 ottobre 2007 esce Bleeding Love, il singolo che anticipa l'uscita dell'album d'esordio della cantante. Il 12 novembre 2007 viene rilasciato in Regno Unito l'album Spirit, che solo nella prima settimana vende più di 300.000 copie, per poi arrivare a quota 3 milioni e diventare il debutto di maggior successo di tutti i tempi, sia in Inghilterra che in Irlanda. Poco dopo, Bleeding Love diventa una hit mondiale e raggiunge la prima posizione in 34 paesi, tra cui Regno Unito, Italia e Stati Uniti. Mi rende così orgoglioso, è la mia creatura. Sono più di un manager per lei, sono un amico, un padre, un fratello. Leona diventa una star mondiale e le viene addirittura affidata la canzone principale della colonna sonora di Avatar, il film in 3D di James Cameron che ha sbancato al botteghino. Gli album che seguono quello di esordio non soltanto ne emulano il successo, ma lo sorpassano. I grandi cantanti se la contendono per fare duetti, le chiedono di poter collaborare con lei per i suoi prossimi lavori. I media la celebrano come una diva e la rincorrono per foto, interviste e paparazzate. Ma a lei tutto questo non interessa. È rimasta semplicemente Liona, la ragazza che rincorreva il sogno di cantare. Solo che adesso ha Simon, il suo angelo custode, che la tiene sempre per mano. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.